E benvenuti alla prima puntata di Cialtroni nello spazio. Trasmissione sul software libero, sulle libertà in generali. In redazione per oggi Francesco, Alessandro e Marco. Ciao. Ciao. Ah, si può ascoltare questa trasmissione in etere sulle frequenze di Radio Onda d'Urto il venerdì pomeriggio attorno alle 16 e in replica il mercoledì durante lo spazio di dissonanza tra le 12.30 e le 14. E quella che sentite è la nostra fantastica sigla. Ma iniziamo con il presentare subito questa trasmissione. Cialtroni nello spazio nasce dall'esigenza di diffondere delle informazioni e conoscenze riguardo un tema che negli ultimi anni ha fatto molto discutere, il libero accesso al sapere. Uno spazio cultural-musicale che vorrebbe nascere dall'intreccio di percorsi diversi, radiofonici, informatici e musicali, e che noi tenteremo di utilizzare allo scopo di fornire informazioni sulla controcultura che si sta sviluppando ormai da anni in tutto il mondo. Il tema del software libero è a noi molto caro, rientra nella lotta contro il copyright, ai brevetti e al diritto dei consumatori di vedere ciò che utilizzano, come funziona ciò che utilizzano e qual è il limite degli strumenti e delle cose che usano. È altresì un tema che ha portato all'attività politica un numero elevato di persone e che comunque hanno creduto nell'identità e negli spiriti liberati in tutto il mondo. Prima di entrare a spiegare che cos'è il software libero, riprendiamo un pezzo di quello che avevamo scritto durante la precedente edizione di Cialtroni nello spazio, trasmissione che andava in onda su Radio Onda d'Urto qualche anno fa. È uno scenario difficile, tutte le grandi lobby si sono lanciate sul mezzo informatico per riuscire a spremere le persone e a continuare la strategia globale che hanno iniziato ormai da anni su tutti i mass media. Grazie però alla intrinseca anarchia della rete si sono formate delle sacche di resistenze informatiche che combattono queste lobby. Uno dei nostri scopi è quello di riportare la tecnologia informatica al livello delle persone, cercando di spiegare e di evidenziare le varie mosse delle lobby informatiche che tendono solo a negare la libertà dei cittadini informatici. Thank you. cercheremo in questa nuova serie di puntate di Cialtroni nello spazio, appunto, di toccare vari punti durante la nostra trasmissione. Una cosa che sentiamo molto è ad esempio la questione della musica libera, quindi nella nostra trasmissione cercheremo sempre di portare avanti dei gruppi o dei cantanti che hanno rinunciato a entrare nei circuiti di distribuzione della SIAE, diciamo dei grandi circuiti di distribuzione musicale, appunto per autoprodursi e diffondere la propria musica liberamente, tentando di tirare su soldi non dai guadagni magari improbabili che potranno ricevere da qualche CD, ma piuttosto dalle loro rappresentazioni in pubblico. Altra cosa che cercheremo di presentare di volta in volta saranno dei programmi basati su software libero che consideriamo importanti e funzionali. Ad esempio, tra poco parleremo del programma per la navigazione in internet Firefox. Un'altra cosa che andremo spesso a toccare nelle nostre trasmissioni saranno le commistioni tra l'informatica e la legislazione. Abbiamo oramai le lobby informatiche che finanziano più o meno di nascosto i governi per farsi scrivere delle leggi ad hoc che gli interessano, appunto, per mantenere i loro interessi a discapito dell'evoluzione della tecnologia e della diffusione, appunto, delle informazioni. L'accesso libero alle informazioni lo considereremo anche per quanto riguardano i tentativi che vengono comunque fatti di censurare il web, ovvero di togliere dal web i contenuti che sono sgraditi a qualcuno. E appunto cercheremo di dare un po' di rilevanza, appunto, a queste azioni che sempre più spesso purtroppo accadono appunto in internet. Entriamo nel vivo della trasmissione, visto che è una trasmissione in cui vorremmo parlare molto di software libero. Adesso andremo proprio a spiegare che cos'è il software libero, visto che non è assolutamente scontato che tutti sappiano che cos'è il software libero. E Alessandro adesso ci presenta, quindi un po' una definizione, una spiegazione di che cosa si intende per free software. Allora, innanzitutto il termine free software viene... è difficile da capire, comunque può essere frainteso, in quanto in inglese significa free, significa sia gratuito che libero. In realtà è molto meglio il termine italiano, che intende software libero, ovvero che che risponde a una serie di caratteristiche che il padre del software libero, insomma quello che l'ha formalizzato nei primi anni 80, Richard Stallman, ha segnalato come le caratteristiche fondamentali del software libero, ovvero sono quattro gradi di libertà, ovvero la libertà di un programma di essere usato per qualsiasi scopo, ovvero non, eh, chi decide di utilizzare questo tipo di software può farlo per qualsiasi scopo, e il proprietario titolare del copyright non potrà mai impedire l'utilizzo, anzi non è richiesta nessun tipo di autorizzazione. La libertà di studiare come funziona e adattarlo alle proprie necessità, e di conseguenza la possibilità di vedere che cosa c'è dentro al programma, come funziona. E questa è un'altra libertà molto importante che caratterizza il software libero. Tendenzialmente il software protetto da copyright non ha questa libertà. Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo. Questo, diciamo, è uno degli aspetti più morali delle libertà segnalate da Stallman, quanto caratterizza il software come uno strumento che non è vincolato da chi l'ha scritto e può essere redistribuito liberamente. L'ultimo grado di libertà è la libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Questa è un'altra cosa molto importante, perché garantisce che non solo il prodotto il software al momento della sua pubblicazione sia disponibile, ma anche tutto quello che viene fatto dopo sia accessibile e quindi anche tutte le migliorie. Altra caratteristica che è un punto di forza del software libero. Al di là della definizione, che può essere un po' ostica, per gli utenti normali, cioè per tutte quelle persone che non se ne fanno nulla del vedere come funziona un programma perché tanto non lo capiscono, il software libero garantisce una serie di cose. Garantisce che all'interno del codice, anche se noi non siamo in grado di leggerlo, non ci siano cose strane, cose che noi non vogliamo, non desideriamo, o peggio ancora che non vorremmo, perché comunque qualcuno l'avrà già visto in rete, l'avrà già controllato e ci garantisce questa possibilità ci garantisce la sicurezza di non avere cose indesiderate o comunque di non eseguire cose indesiderate. però allora ultimamente però effettivamente si sente tantissimo parlare di software libero, il sistema operativo Linux è famosissimo, oramai quasi chiunque lo conosce, il browser web Mozilla o Firefox sono oramai utilizzati da più del 10% degli utenti in internet, e però appunto il movimento del software libero è un qualcosa che non è soltanto di questi ultimi anni, ma diciamo ha un passato storico abbastanza, cioè diciamo sono un po' di anni che c'è in giro questo. La definizione di cui ho parlato prima risale all'84, quindi il movimento riguardo al software libero è già 20 anni che diciamo in circolazione. Diciamo riusciamo soltanto ultimamente a cominciare ad apprezzarne i risultati, esattamente, perché il vantaggio principale di questo metodo di sviluppo, che sostanzialmente è quello che fa la differenza, cioè come viene costruito il software. Per gli utenti normali il software comincia a diventare interessante quando comincia ad avere tutte le caratteristiche di cui hanno bisogno. Adesso si cominciano a vedere i risultati di 10 anni di metodologia open. Però diciamo, abbiamo adesso i risultati, però abbiamo anche una base solida e quindi la libertà da programmi di spyware o di altre cose, diciamo cose strane che forse chiunque, diciamo da virus, da spyware, da cose strane che oramai chiunque ha avuto a che fare con internet conosce bene. Esattamente, però c'è un altro grandissimo punto di forza e che ha portato il software libero comunque ormai a concorrere direttamente con software sviluppati da aziende molto grandi, con gente stipendiata. Ricordiamo che tendenzialmente il software libero è prodotto da persone non finanziate, di solito. Esistono poi dei prodotti software, quelli più grandi, dove esistono forme di comunque di finanziamento o cose di questo tipo, però la forza comunque del software libero è nata proprio dalla libertà di ognuno di poter integrare ciò che trovava disponibile in rete e aggiungere le proprie parti. Ovviamente si parla sempre di programmatori, quindi non di utenti finali. Al più gli utenti finali hanno potuto dare il loro contributo testandoli, guardandoli e suggerendo funzionalità e cose di questo genere. Per questo che oggi, dopo 10 anni comunque, perché la definizione risale a 20 anni fa, però il grosso della produzione negli ultimi 10 anni, solo adesso cominciano ad esserci dei prodotti che in alcuni casi superano di qualità, di funzionalità, di velocità quelli prodotti da aziende. C'è a dire che il grande sviluppo degli ultimi anni è stato proprio permesso grazie a internet, quindi il fatto di poter mettere in condivisione con milioni di persone che volontariamente hanno scelto di continuare o di dare una mano a sviluppare dei progetti ha creato delle comunità, mentre invece prima, essendo i codici rinchiusi appunto all'interno di scaffali nelle grandi software house o comunque all'interno di chi voleva produrre il suo prodotto senza avere migliorie da parte di altre persone, per insomma come sorta di tutela del suo lavoro, che non si è reso conto invece del vantaggio che ha di metterlo a disposizione di tutti e di condividere insieme la possibilità di migliorarlo, ha permesso internet di creare delle forti comunità e quindi di sviluppare molto il software libero. Più che altro è quello che ha dato accelerato questo processo. Il software libero nasce nelle accademie, fondamentalmente nelle università americane, come d'altronde è nato il software all'inizio degli anni 60. Esattamente, in realtà quelli che facevano software negli anni 60 hanno continuato a farlo, quelli che hanno inventato hanno continuato a farlo in maniera diversa, più strutturate, più organizzate, più diciamo con una serie di strumenti che sono andati via via migliorando. Tanto che i primi prodotti di software libero sono proprio quegli strumenti che usano i programmatori, diciamo la prima parte, che ovviamente ai più sono sconosciuti. Però grazie a questi strumenti, grazie alla capacità di interagire con questi strumenti, di scambiare le informazioni, poi con internet anche a distanza, quindi allargando le comunità delle accademie, dei campus al di fuori degli Stati Uniti e fondamentalmente in tutto il mondo, ha reso possibile un forte incremento della produttività, della qualità del software libero. Nel libro sugli arbori dell'informatica scritto da Steve Levy, che si intitola Hackers, era proprio mostrato come nell'inizio degli anni 60 nelle università americane chi scriveva il software lo metteva in un cassetto e il giorno dopo qualcun altro poteva prendere da questo cassetto il programma, migliorarlo, e c'era proprio la sfida di ridurre il codice, renderlo più veloce. All'epoca i computer tra l'altro erano molto meno potenti di quello che sono oggi, quindi il problema della velocità era forse ancora, si sentiva ancora di più. E invece appunto questa possibilità di mettere a disposizione di tutti il codice sorgente all'interno delle università, che poi venivano mandati attraverso chi via gli arbori di internet che ancora non esistevano, un po' le BBS si può dire, oppure addirittura via posta tramite i dischetti, venivano messi in condivisione e chiunque poteva poi migliorare questo software. Come si legge sul sito della new.org, di cui dopo vedremo i riferimenti, il concetto di software libero discende naturalmente da quello di libertà di scambio di idee e di informazioni. In modo simile a quanto avviene per le idee, parte essenziale del processo che sostiene la crescita ed evoluzione del software è la sua libera diffusione. Quindi se volete sapere di più, comunque, vedere i manifesti di queste organizzazioni che hanno formalizzato tutto questo movimento durante gli anni 80, prima metà degli anni 80, potete andare a vedere l'indirizzo www.new.org, www.softwarelibero.it, che sostanzialmente propone una versione tradotta di questi manifesti, e www.italy.sfseurope.org. Pensieri persi nella notte. La Napoli che fuma. Stop. 5-1-0. Shot. Original. 5-1-0 sopra la collina. No, intanto ci ha raggiunto in studio anche il nostro consulente musicale, già noto agli ascoltatori di Radio Onda d'Urto per la sua trasmissione Terapia WH. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Allora, in questa trasmissione noi vogliamo anche parlare molto di musica libera, quindi ti avevamo chiesto di preparare una canzone da presentarci anche oggi, che non è, purtroppo sei potuto arrivare solo in questo momento, quindi qual è la canzone che possiamo andare ad ascoltare adesso? Ecco, io vado adesso ad introdurre Cuba Caballo, ovvero il cugino di Luix, tratto dal suo unico disco, Alla corte dello governatore, la traccia 4. E quindi giusto il tempo tecnico di infilare il CD all'interno del nostro lettore e poi partiremo con questa canzone. Oggi, venerdì, febbraio, acquario, costa nostra inventa, fora spoltore, il sole crea, zitti, alla corte dello governatore. Leggero andante, tra mille forze di attrazione cammino. Rilasso il respiro, vado avanti sulle zone dei limiti del regno. A volte una merda, a volte fregno. Sgama adesso e vai col tango. Dammi la mano, accompagnami solo come tu sai fare. Passeggiate nel delirio che riscrivo nel diario del mio destino. E se qualcuno me lo dice non voglio saperlo più. Continuare nelle azioni, scoprirlo e diventarlo. Quasi come in un freestyle di attimi di vita. Tra piccole contraddizioni di sfida. Prima con te, poi con me. Adesso cerco la vita. Mi guardo intorno nel gioco degli specchi. Mi penso sotto, mo parlami, sono tutto orecchie. Guardale, sono storie vecchie. Di frasi son proiettili, di pelle sono rettili. Tasselli bianchi e neri nella partita. Messi in un equilibrio dinamico da scacco. In confusioni di realtà da matto. Per la gente a cui tengo, per le feste intrattengo. Per le nuove pratiche che dispongo e propongo. Per le forze del regno, dalle terre che vengo. Udite, alla corte dello governatore. Udite, genti, menestrelli e salti in banchi. Udite, uomo, chi nel regno è il nostro uomo. Unite, le genti, per le terre d'oltremar. Viaggi nelle notti fluide, mentre la città dorme. Qualcuno fa la guardia in giro a luci soffuse di macchine sfreccianti. Custodi del giorno nel buio erranti, nelle dancehall salti in banchi. Avvolti da una strana nebbiolina che sa di affanno. Girare e cantare tra lealtà ed inganno. Ritornare a riposare sulle sabbie della costa in un capanno. Ogni sera a farci danno. Acqua salata, mente malata. Il sole riscalda un bicchiere di vino rosso alla calata. Reduci da battaglie per che cosa? Reclute di un contingente di dannazioni. Vaffanculo alle questioni. Per il male unite le nazioni. Basta mo. Sto fermo in grippo il marchingegno. Adesso scappare per trovare soluzioni migliori non mi serve più. Mi fermo sul posto, mi muovo composto. Sta sicuro che non ti vengo addosso. Iso io e tu sei tu. Te le faccio e te le canti proprio come li vuoi tu. Continuo nel rappare. Una strada da seguire. Una moda da buttare con chi non può capire. Il rap è la mia vita. E adesso puoi sentire. Udite, a me forte dello governatore. Udite, genti, menestrelli e salti in banchi. Udite, uomo, chi nel regno è il nostro uomo. Unite le genti per le terre d'oltremar. Abbiamo introdotto prima, abruzzese di origini, sì, abruzzese appunto, cugino di Luix, ha fatto autoproduzioni dai tempi di Onda Rossa Posse, praticamente, questo qui. E niente, questo sarà un programma comunque rigorosamente con musica autoprodotta ed indipendente. E niente, vogliamo... Riprendiamo e concludiamo. Volevamo appunto parlarvi, come avevamo detto all'inizio, di diciamo software, un software diciamo a puntata, e appunto volevamo parlare di Firefox. Firefox è il browser web prodotto da quelli di Mozilla, è uscito un paio di mesetti fa e oramai utilizzato da tantissima gente, si parla di un 8-10% degli utenti internet. Ecco Marco, ma che cos'è un browser web? Ah, scusatemi, ovviamente è il programma che noi utilizziamo per visualizzare delle pagine web, ovvero sia vogliamo andare a vedere il sito di Radio Nadurto e apriamo un browser web, che in questo caso è il nostro Firefox, e andiamo a digitare www.radionadurto.org e appunto ci si apre il sito di Radio Nadurto con appunto tutte le informazioni del caso. E beh, in sostanza è quello che fa Internet Explorer, e quindi la domanda sorge spontanea: ma perché dovremmo utilizzare Firefox piuttosto che Internet Explorer? Che cosa ci dà di più, di diverso, visto che anche Internet Explorer è gratis, ce l'abbiamo già installato? Allora, Firefox è nato di recente appunto e ha tutta una serie di caratteristiche che ottimizzano appunto la navigazione in internet, quindi noi navighiamo in internet meglio, più velocemente. Che cosa vuol dire? Ad esempio abbiamo dei sistemi per bloccare i pop-up di pubblicità. Che cos'è un pop-up? Quando apriamo un sito a volte si apre un'immagine in mezzo allo schermo con la pubblicità per comprare quella macchina oppure per fare delle altre cose, cioè insomma pubblicità che ci salta fuori davanti e siamo costretti a schivare questa pagina, chiuderla e fare diciamo delle azioni per non vedere questa fastidiosa pubblicità. Firefox ha già al suo interno un oggetto che blocca questi pop-up e quindi ci permette di navigare meglio. Ha ad esempio la possibilità di visualizzare più pagine web dentro lo stesso browser, in modo da non avere 40 siti aperti con in 40 finestre diverse, ma avere tutto in una finestra, quindi molto più e doverli cercare nella barra di Windows. Esatto, a posto di doverli cercare nella barra abbiamo subito sotto la barra dei menu è più organizzato, le schede appunto. Esatto, è molto più organizzato. Abbiamo ad esempio la possibilità di integrare il nostro browser con i motori di ricerca che vogliamo noi. Internet Explorer era un prodotto Microsoft e quindi loro mirano a pubblicizzare i loro motori di ricerca, mentre invece con Firefox spesso non trovano. Questo è soggettiva la cosa, però diciamo qui possiamo integrare appunto dalla ricerca con Google o con altri motori di ricerca che appunto vogliamo noi. Possiamo anche scegliere di tenere più motori di ricerca e fare a seconda della nostra query, della nostra appunto ricerca, domande a siti diversi. È un download tra l'altro di internet, di Firefox, che è piccolissimo, si parla di 4 mega, e in 4 mega abbiamo appunto appunto Firefox, e già con 4 mega di download riusciamo a navigare in internet senza problemi. Col microfono lui parla. Una grana di minchia. E quindi si tratta solo di funzionalità in più rispetto a Internet Explorer? No, vabbè, abbiamo moltissime altre cose in più rispetto a Internet Explorer. Ad esempio, una cosa diciamo abbastanza importante è che Firefox non ha virus e non ha tutto l'insieme di problemi di sicurezza che ha Internet Explorer, quindi abbiamo anche in questo caso una navigazione migliore. Il fatto che non ci siano virus non è una sbrufonata da bar di paese, ma è, diciamo, vuol dire che non ci sono virus? Allora, cosa vuol dire? Semplicemente che spesso i browser hanno delle insicurezze, ovvero sia degli errori di programmazione. Internet Explorer è veramente pieno di questi errori di programmazione, che permette appunto a una persona che voglia fare una pagina un po' cattiva, invadente, di fare al nostro computer e al nostro browser quello che vuole lui. Quindi addirittura può dire: ah, quando una persona visualizza questa pagina io voglio che si installi questo softwareino che vada a ridirigere tutte le volte che si connette a internet, di caricare prima il mio sito e poi quello di qualcun altro. Questo intendo dire con virus, con problemi di sicurezza. Oppure una volta cambiavano i numeri di telefono delle connessioni internet. Esatto, tempo fa tantissima gente si è rimasta fregata dalla dei dialer, dai dialer che appunto ti connettevano a internet telefonando un numero tipo 144, queste cose, per cui alla fine ti trovavi i 200-300 euro di bolletta e è tutto grazie a Internet Explorer. Sì, esatto, invece Firefox, essendo un prodotto di software libero, ne ha tutte le caratteristiche di virtuosità, per cui abbiamo anche il fatto che appunto è più sicuro intrinsecamente, perché non ha segreti al suo interno e quindi è tutto, diciamo, è tutto sotto gli occhi di tutti, per cui per essere fatto bene deve essere fatto bene, cioè non si può dire è fatto bene così, ma c'è la dimostrazione appunto guardando nei sorgenti, diciamo, guardando all'interno di Firefox. Beh, l'amore per questo firewall, per questo browser, si è visto anche nella fase finale dello sviluppo, quando sostanzialmente è stata fatta una raccolta fondi per completare lo sviluppo, e questa raccolta fondi è stata parecchio portata a, sì, sì, beh, a una raccolta di parecchi fondi, proprio perché la gente lo aspettava ardentemente, insomma, era disposta pure a pagarlo in qualche modo, insomma, anche se con donazioni. Esatto, ci siamo dimenticati appunto di citare dove andare a prendersi Firefox. Lo possiamo trovare sul sito di Mozilla, che è www.mozilla.org, con una z. E ecco, a proposito di tutti i link e tutte le informazioni che daremo durante questa trasmissione, sul sito del Circolab, entro, diciamo, o già quando ascolterete questa trasmissione oppure entro pochi giorni, saranno disponibili tutti i link e tutti i riferimenti a quanto si è parlato durante la nostra trasmissione. Spiegheremo anche che cos'è il Circolab durante una di queste puntate. Perfetto, siamo già avantissimo con i tempi, e quindi vi salutiamo. Ciao da Marco. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. E vi lasciamo ancora con la nostra sigla.